Allora, benvenute e benvenuti a Cabaret Extra Voltaire, e ci tengo a sottolinearlo perché è la prima puntata ufficiale in cui definiamo questa specie di figlio o figlia di Cabaret Voltaire, che è un podcast che tengo qui in Exalge e che io e Martina abbiamo deciso di dedicare prettamente alla drammaturgia femminile. Quindi in realtà questo è già il secondo incontro dedicato a Simona Semenic, e in cui Martina e Giulia Maino questa sera ci leggeranno il secondo monologo performance di questo testo che appunto Martina ha tradotto, che fa parte di questa trilogia della vittima, almeno così lo chiama l'autrice, e che ha debuttato nel 2009 al teatro Glei di Lubiana, e che diciamo in qualche modo con una forma molto irriverente e ironica, vedrete, ci presenta un po' di tabù sociali su, diciamo, tematiche lavorative, femministe, sociali in generale. Nello specifico, il testo che sentiremo stasera racconta, diciamo, le difficoltà, le problematiche che ci sono per coloro che lavorano, diciamo, nel mondo del teatro, ma non solo, per riuscire a ottenere fondi, quindi partecipare a bandi per ottenere fondi per la creazione e la pubblicazione poi dei testi teatrali. Come dicevo prima, Simona ha un atteggiamento appunto molto irriverente, simpatico, ironico, per cui non sentirete un testo vittimista e critico, cioè, o meglio, è una critica sottile tra le righe, ma non è appunto drammatico. Al contrario, appunto, è come se fosse un testo che racconta proprio questo processo, quindi il fatto che lei, per via di tutte le, diciamo, trafile burocratiche che comporta chiedere, applicare a un bando e insomma chiedere fondi per un'attività artistica, porta via tanto tempo, e quindi lei arriva al momento in cui ottiene questi fondi senza un testo e quindi decide di scrivere un testo in cui racconta questo processo, anche in un modo un po', direi, strabottente, se posso usare questa parola. E quindi niente, diciamo, la critica ovviamente è sottile ed è tra le righe in questo senso. E poi direi che un altro aspetto interessante è il fatto che anche parte di questo Cabaret Extra Voltaire, l'idea di dare vita a un testo che non è stato, cioè non è un testo recitato, appunto, è un testo raccontato, e proprio per questo motivo lo spettatore in questo senso è chiamato ad avere un ruolo fondamentale. Quindi voi che siete qui stasera, attraverso la vostra immaginazione, di fatto metterete in scena questo spettacolo che Martina e Giulia leggeranno questa sera. E quindi proprio per questo, in qualche modo, l'autrice, direi, che chiama in causa gli spettatori rendendoli partecipi loro stessi dello spettacolo, e quindi sono una parte fondante proprio anche della possibilità di mettere in atto lo spettacolo, no? E niente, quindi direi che lascerei la parola alle due attrici, Giulia, perché Martina l'ho già presentata più volte, però poi ti lascio presentare se vuoi dire qualcosa. Invece Giulia, che è una new entry di questa sera, è un'attrice, un'autrice, un'attivista del gruppo delle Amlete, come anche l'altra Giulia dell'altra puntata. E niente, lascerei la parola a voi se volete presentare un pochino quello che andrete a leggere, o se no, insomma, iniziamo e poi ne discutiamo dopo. Grazie Laura, grazie a tutti. Laura ha già detto tutto, praticamente, quindi ha spiegato benissimo. Soprattutto una cosa che ci terrei a puntualizzare è quello che appunto hai detto riguardo al ruolo dello spettatore, nel senso che questo non lo potete vedere, ma il testo in questo caso chiama in causa lo spettatore nelle didascalie, cioè le didascalie che di solito descrivono elementi che non vengono detti, ma tipo, non so, c'è lui tira uno schiaffo. In questo caso le didascalie parlano direttamente al pubblico e gli chiedono di fare determinate cose. Quindi è proprio qua che il testo diventa performativo. E appunto, come diceva Laura, in questo testo la critica è all'istituzione culturale e Simona Semenic utilizza la sua situazione di vittima, nel senso che non ha avuto tempo né soldi per tempo per lavorare al progetto, e usa l'evento stesso per fare il testo, per scrivere il testo. Quindi arriva in scena, non ha avuto tempo per fare lo spettacolo e quindi porta quello che ha, che è tutto quello che lei ha scritto nei bandi. Sono d'accordo, non ho nient'altro da aggiungere. Quindi adesso lasciamo parlare il testo, perché tanto è inutile finché. Esatto. Cominciamo allora. Il prossimo testo della mia autobiografia in tre spettacoli è Dammi di più, del 2009. Nel luglio 2009 diedi alla luce il mio figlio minore Vitomil. Avrei dovuto mettere in scena Dammi di più entro la fine del 2009, e così accadde, a fine dicembre. Se Io e la vittima affrontava principalmente tematiche entro il campo medico, Dammi di più non le tocca nemmeno. Questo non significa che non riguardi la Compagnia dei Cavalieri, tutt'altro. Dammi di più. Un beta spettacolo di Simona Semenic, con un prologo e un epilogo, anche tradizionalmente sottotitolato La mia vagina rientra perfettamente nella media delle vagine occidentali, come tutte le parti al loro posto. Quindi mi chiedo quando è che mi abbiano tagliato il clitoride. Inspira, espira e Dammi di più comincia. Caro pubblico, mentre arrivi ti guardo. Ti vedo prima che tu veda me. Sono seduta vicino alla finestra. Al botteghino del teatro in via Gregorčič 3. Qualcuno mi scatta una foto. Ti avvicini e dici di volere un biglietto per lo spettacolo di stasera. Dammi di più. Perché mi trovi interessante. Non sai nulla di questo spettacolo, perché non c'era niente. Da nessuna parte. Nessun annuncio sui media. Nessuna pubblicità. Nessun poster. Nessun volantino. Nessun programma di sala. Nessuna informazione sullo spettacolo, nessuna sintesi. Non sai nemmeno chi si esibisce. Solo il titolo e l'autore. Tu sei qui solo e soltanto per me, perché vuoi più di me e sono a tua completa disposizione. Sì, un biglietto, due biglietti, tre biglietti. No. Non c'è nessun programma di sala, non abbiamo niente. Ti sorrido. Qualcuno mi fa una foto. Sono un po' maliziosa. Ci stiamo divertendo, vero? Ci stiamo divertendo. Sono qui per te, stimatissimo pubblico. Poi ti blocchi per un istante di fronte all'ingresso del teatro. Sarò in ritardo di 10 minuti. Vai a farti uno shot. Vado ad aprirti la porta. Finalmente apro la porta. Qualcuno mi scatta una foto. Qui sulla sinistra c'è un appendiabiti per chi volesse lasciare il cappotto. Stimatissimo pubblico. Sugli spalti i posti non sono numerati. Chiudo la porta e salgo sul palco. Di fronte a me c'è un leggio. Afferro il microfono. Stimatissimo pubblico. Non perché altrimenti non mi sentiresti. Afferro il microfono perché mi fa sentire più sicura di me. Patetico, hai ragione. Bianco, siamo pronti? Chiedo al tecnico. Certo che lo siamo. Qualcuno mi scatta una foto. Mi rivolgo a te. Buonasera. Buonasera. Sono felice che siete venuti così numerosi. Ma se poi non siete così numerosi, qui improvviso, in generale, mi sa che improvviserò parecchio. Per chiarire le cose sin dall'inizio, tutto ciò per cui siete qui è davanti a voi. Cioè, tutto ciò per cui siete qui è davanti a voi. In questo beta spettacolo con un prologo e un epilogo, la dramatis persona sono io. Oltre a me, altre tre attrici interpretano me. Medea Novak, Lara Ljankovic e Damiana Serne. A questo punto sarete preoccupati di sapere in cosa vi siete cacciati trascinandovi qui stasera. E sì, avete ragione a preoccuparvi. Questo è esattamente ciò che temevate che fosse. E avete il diritto di essere ancora più inorriditi. Questo è proprio uno di quegli spettacoli da non restituirò i soldi. Ti guardo. Mi piacerebbe sapere se capisci cosa intendo. Non sono sicura che ci capiamo. Non lo sono affatto. Una nota per chi non lo sapesse. Gli spettacoli da non restituirò i soldi sono quegli spettacoli che noi artisti prepariamo in fretta solo perché abbiamo ricevuto i fondi dai finanziatori e il contratto prevede che spendiamo questi fondi entro la fine dell'anno, ma per un motivo o per l'altro non riusciamo a portare a termine e mettere in scena lo spettacolo. Non ho avuto tempo. Davvero non ho avuto tempo. So che nessuno ha tempo, ma io non ho avuto tempo per ragioni oggettive. E poi l'unico materiale che mi rimaneva e che avrei potuto esibire rapidamente, o più precisamente presentare, era... Simona Semenic. In altre parole, siamo qui per non violare i contratti che prevedono che io porti a termine questo progetto entro la fine dell'anno. Cosa che sto facendo adesso con il vostro aiuto. Ti sorrido, stimatissimo pubblico. Ti sorrido con gratitudine. Ti sorrido con gratitudine. Se riesco, se non riesco, ti sorrido con malizia. Le attrici erano parte del progetto sin dal primo momento. Ciascuna di loro entrerà in scena nel momento in cui apparirà nel concetto che è stato presentato a una qualsiasi delle autorità. E poi, a un certo punto... passerò loro il microfono. Di modo che possano guadagnare il loro compenso. Ciascuna di loro inizierà la propria parte con il monologo. Il mio nome è Simona. Questi monologhi si sviluppano attraverso il testo. Il che significa che ognuna delle attrici avrà un monologo leggermente diverso. E tutto questo non è altro che una panoramica cronologica delle varie fasi di sviluppo di questo progetto. Che consistono più o meno in domande di partecipazione a questo o quel bando di concorso. Perché, come ho già detto... non ho avuto tempo di fare di più. Ecco, quindi, questo è più o meno tutto. L'intero contenuto dello spettacolo da Non restituirò i soldi di stasera. Forse questo potrebbe essere un nuovo tipo di arte performativa, che invece di chiamare spettacolo teatrale... o spettacolo di danza, o spettacolo di marionette... o qualunque altro spettacolo, beh, noi piuttosto lo dovremmo chiamare... spettacolo da Non restituirò i soldi. E in un report annuale il numero di questi spettacoli potrebbe facilmente competere con il numero degli spettacoli di marionette, o di teatro, o di danza. In ogni caso, quando scenderò dal palco, vi servirò della trippa. Il motivo? Lo scoprirete più avanti. Se deciderete di restare, intendo. Perché non siete obbligati a farlo. Non c'è nulla di catartico di fronte a voi stasera, se non scoprire il motivo della trippa. E comunque, anche se decidete di andarvene, io continuerò a parlare, perché devo portare a termine lo spettacolo. Ti guardo, stimatissimo pubblico. Ti guardo in stile... ci stiamo solo divertendo un po', è solo un gioco, non è mica per davvero. Aspetto, per vedere se deciderai di andartene. Se c'è dentro di te un provocatore che vorrebbe farlo. Ma in realtà non voglio che tu te ne vada. E se anche lo facessi, beh, certo, accetterai tutte le conseguenze del mio gioco malizioso perché... come ho già detto... non ho alcuna intenzione di restituire i soldi. E qui ti sorrido con malizia. Quindi... ho chiesto alle istituzioni a quanto dovesse ammontare la durata integrale dello spettacolo sovvenzionato. O se esistessero regole precise in merito. Non ce ne sono. Con nessuna delle istituzioni. Infatti, le risposte che ho ricevuto erano tutte piuttosto simili. Che avrei dovuto sapere da sola la risposta? Che avrei dovuto sapere da sola quanto tempo mi serve per comunicare i contenuti presentati nei bandi di concorso. Il mio nome è Simona. Ho gli occhi castano scuro, sopracciglia scure, fronte alta, naso... senza pretese. Zigomi non pronunciati, capelli neri che arrivano fino al collo, collo lungo, spalle... insignificanti, seno... attualmente abbondante, polsi stretti, mani grandi... con unghie mangiate, una grossa pancia con tutte le caratteristiche della gelatina, un sedere flaccido, cosce a buccia d'arancia... porto il 39 di scarpe, vesto una taglia 38 e ho 34 anni. Sono alta, 1,71 e non sono un tipo sportivo. Non sono nemmeno un tipo borghese. Il mio aspetto è senza pretese. Nella media. Non mi piacciono e non mi sono mai piaciuti i colori pastello. E non ho mai indossato nulla color oro. Sono ancora una appassionata fumatrice. Anche se non fumo da 6 mesi. Ho l'epilessia. Se avessi un fidanzato, di certo non direbbe che somiglio a un coniglietto. Al massimo a un porcellino d'India. E non chiedetemi dove sia stato l'intoppo, in quale punto preciso abbia perso tempo. È andata male, è scaduto il tempo. In qualche punto tra la prima e la 14ª fermata. Nel giugno 2008 uscì un bando del Teatro Glei. Che cosa avrei potuto proporre? Stavo per partire per New York, scrivendo il testo per lo spettacolo a New York e lavorando su uno spettacolo in Danimarca. Avevo fretta. E non c'è tempo. Ma fanculo, devo mandare qualcosa. Lunedì 25 agosto 2009, alle 20.49, mandai una mail a info@glei.si con oggetto... bando di concorso. Mandai la mail come artista, senza pensare alle possibilità di produzione. Mi preparo a leggere. Mi schiarisco la voce. O uso qualche altro gesto stereotipato. Leggo per te, stimatissimo pubblico. Ho letto per te tutto questo tempo. Leggerò dall'inizio alla fine, visto che prima non ho avuto tempo di preparare lo spettacolo. E poi non ho avuto tempo per memorizzare il testo. Ma questa domanda per il bando di concorso te la leggo in modo diverso. Questa domanda te la leggo come se stessi leggendo. Gentile signore o signora, sono una giovane drammaturga e performer. CV e biografia in allegato. Da tempo sento di avere un legame particolare con il vostro... maiuscolo. ...teatro. Ogni volta che entro nel vostro... maiuscolo. ...spazio, quasi mi confondo con esso. Mi scatena emozioni indefinibili, dalle più intime alle più sottilmente divine. Come artista, il mio lavoro è la continua ricerca di bellezza nella spiritualità, nel sacro. Allo stesso tempo, la mia creatività emerge spesso dalle zone più oscure e torbide del quotidiano, del banale, del profano. Il titolo provvisorio del mio nuovo progetto è... Dammi di più! È nato dall'interrogarsi sul fenomeno dell'incesto. L'amore proibito tra padre e figlia. In questo progetto io comparirei come performer e la mia partner di scena sarebbe la giovane e talentuosa attrice Medea Novak. Aspetto. Aspetti. Aspettiamo. Dove ero rimasta? Ah, sì. Leggo come se stessi leggendo. Il titolo provvisorio del mio nuovo progetto è... Dammi di più. È nato dall'interrogarsi sul fenomeno dell'incesto. L'amore proibito tra padre e figlia. In questo progetto io comparirei come performer e la mia partner di scena sarebbe la giovane talentuosa attrice Medea Novak. In termini di genere, definirei la performance come un... atto teatrale performativo. E il sottotitolo del progetto è... La mia vagina rientra perfettamente nella media delle vagine occidentali, con tutte le parti al loro posto, quindi mi chiedo quand'è che mi abbiano tagliato il clitoride. Il progetto non prevede particolari esigenze tecniche. La performance si concentra esclusivamente sulla presenza di due corpi voci sul palco. Un'attrice professionista che si cimenterà in un atto unico, interpretando diversi ruoli, e io, come attrice non professionista, che sarò presente come genitore del presente tentativo di teatralizzare la bellezza dell'essere, in qualità di autrice e regista che, durante lo sviluppo dello spettacolo, mette in discussione i propri approcci teatrali e porge uno specchio al pubblico, che si protegge dai temi trattati attraverso la negazione, la repressione e il tradimento di sé. Mi piacerebbe che includiate il mio progetto nel vostro maiuscolo programma, perché sono profondamente convinta che il Teatro Glej sia l'unico luogo in Slovenia in cui io possa esprimermi appieno come artista. Vi maiuscolo ringrazio per il vostro maiuscolo tempo e vi maiuscolo auguro di avere molta luce sul vostro maiuscolo cammino. Anche questo maiuscolo. Simona Semenic. Post scriptum in fondo. Non c'è un cammino per la felicità. Lo stesso cammino è la felicità. Ti guardo. Ti guardo in modo significativo. Ti sorrido. Mi piacerebbe flirtare con te, ma non oso. Per paura di superare il limite. Ho paura di superare il limite. Perché mi irrita quando qualcuno flirta con me in teatro. Lo trovo una tattica scadente, una soluzione scontata, mi capisci? Stimatissimo pubblico. Hai la giusta misura per queste cose? Sai come spostare lo sguardo, cambiare impercettibilmente l'argomento al momento giusto? Non ho mai ricevuto risposta dal teatro. Ma poco dopo, la direzione dell'Associazione Culturale Integrali decise che il progetto sarebbe stato prodotto dall'Associazione Integrali. La direzione del Teatro Glej accettò la coproduzione. E così iniziò. Anzi, no. Non iniziò così. Iniziò nel mio letto, nella mia stanza, nella mia casa di via Smartinska a Lubiana, un bel po' di tempo prima. Stimatissimo pubblico. Il mio nome è Simona. Ho gli occhi castano scuro, sopracciglia scure, fronte alta. Naso senza pretese. Seno attualmente abbondante. Porto il 39 di scarpe, vesto una taglia 38 e ho 34 anni. Non sono un tipo sportivo. Non sono nemmeno un tipo borghese. Non ho mai indossato nulla color oro. Ho l'herpes genitale. Ma non in questo momento. Sono una giovane drammaturga. Sono una performer. Sono cofondatrice e presidentessa dell'Associazione Culturale Integrali. Dal 9 ottobre 2007 sono presidentessa del Teatro Glej. Ovvero ho la direzione del più antico teatro off sloveno. Ti sorrido. Sono una drammaturga, performer, presidentessa e presidentessa. Se avessi un fidanzato verrebbe in vacanza con me per 2 mesi. Tutto iniziò, come ho già detto, nel mio letto. Sono a letto con il mio ex ragazzo. O come si chiama? Perché non era un fidanzato, un partner, ma vorrei essere politically correct e non chiamarlo semplicemente scopatore. Servitore. Cavaliere o qualcosa di ugualmente inappropriato. Quindi, sono sdraiata a letto con il mio ex amante. No. In realtà non sono sdraiata a letto, siamo sdraiati su un divano letto nella mia cucina. Vivo in una casa minuscola che chiamo Topaia. Ogni volta che prendo un taxi dico, Sì, fermati qui, vicino alla topaia. Bene, allora, mio figlio, il maggiore... Ha 8 anni e mezzo, ne compirà 9 a marzo. Allora, mio figlio maggiore dice... Mamma, perché dici così? Perché dici topaia? Non mi piace quando dici così, non è vero che è una topaia? Beh, allora, gli spiego che in realtà è una topaia. Una casa vecchia, 110 anni, con una cucina che è allo stesso tempo cucina, sala da pranzo e soggiorno. La TV è sul bancone della cucina e una grande stanza che abbiamo abilmente diviso in due, di modo che io e Certomil abbiamo ciascuno la propria stanza. Certomil è il nome del mio figlio maggiore. Quindi abbiamo ciascuno la propria stanza. Poi dobbiamo uscire nel corridoio comune e uscire di casa per qualche passo e solo allora arriviamo nell'altra parte della nostra topaia. E nell'altra metà abbiamo un bagno e uno studio. Essenzialmente una specie di cesso esterno. Quindi perché non dovrei chiamare casa mia con il nome che merita? Una topaia. Ecco cos'è. Spiego al mio figlio maggiore, mentre scendiamo dal taxi ed entriamo in cucina, gli spiego che viviamo, cazzo figlio, in una topaia. Ma ce la spassiamo un sacco in questa topaia. Non è meraviglioso vivere in una topaia e spassarcela un sacco, piuttosto che vivere in un castello e non divertirci affatto. O vivere in una topaia e fingere di vivere in un castello ed essere sempre infelici e pieni di invidia, perché ogni giorno passi davanti a via Nifosveia 11 per andare a scuola. Ecco, è così che lo spiego Certomil. A volte evito il cazzo figlio, ma a volte mi scappa. Beh... Cazzo, sono sdraiata sul divano letto della mia minuscola cucina con il mio ormai ex. Ma ai tempi attuale, amante. E comincio a ridere. Lui mi guarda. Ma che mi ha preso? Mi è venuto in mente un dialogo. Non lo sa finché non dico. Dico? Papà, per favore, scopami. È così che inizierà il mio prossimo dramma. Papà. Per favore, scopami. No, figlia mia, non ti scoperò. Ma papà, voglio che mi scopi. Scopami, papà. Figlia mia, no. Ho detto di no e poi no, perché non è giusto. Papà! No! E il mio ex amante non lo trovava neanche lontanamente divertente. Mentre io lo trovavo esilarante. Perché adesso sapevo come sarebbe iniziato il mio prossimo dramma. Sarebbe iniziato con la battuta «Papà, per favore, scopami». Cioè, no. Non è il mio prossimo dramma, è questo dramma, questo qui, qui e ora. E ho cambiato un po' l'ordine, non si apre con questa battuta è qui, cioè questa battuta è appena comparsa. Perché stessi pensando a questo non lo ricordo nemmeno tanto bene. Probabilmente perché ne avevo fin sopra i capelli di quegli spettacoli incestuosi sui pedofili. Anzi no, non ne avevo fin sopra i capelli solo di quegli spettacoli incestuosi sui pedofili. Ne avevo fin sopra i capelli dei gentiluomini in pelliccia. Che seguono inorriditi gli spettacoli incestuosi sui pedofili. Più sono inorriditi i gentiluomini in pelliccia, più si sentono meglio dopo, quando durante un esame toccano le ginocchia delle loro studentesse o dei loro pupilli, o che si masturbano davanti alla rivista Io e il mio bambino. Immaginate un gentiluomo in pelliccia con un cappello e una 24 ore e nella 24 ore la rivista Io e il mio bambino e in mano il programma di sala con scritto dammi di più. Quindi lui tiene il programma di sala in mano e si siede in prima fila. Il sipario si apre. Polona Juch appare sul palco. Guarda il gentiluomo in pelliccia con le 24 ore e la rivista Io e il mio bambino dritto negli occhi. Lo guarda dritto negli occhi perché è uno spettacolo contemporaneo. Bene. Immagina Polona Juch sul proscenio che guarda il gentiluomo in pelliccia con la rivista Io e il mio bambino dritto negli occhi e sussurra. Papà. Inspira. Espira. Per favore, scopami. Espira. Riuscite a immaginarlo? Inspira. Papà. Espira. Per favore, scopami. Espira, il gentiluomo con la rivista Io e il mio bambino alla bocca asciutta. Mentre Polona Yu lo sta guardando dritto negli occhi. Il gentiluomo vorrebbe scappare in bagno, estrarre la rivista Io e il mio bambino dalla sua 24 ore e farsi una sega proprio lì, nella toilette del teatro. È così duro da farlo impazzire, ma poi, da lontano, gli giunge la voce di Ivo Bano. No, figlia, non ti scoperò. E non è lontana, sembrava solo lontana. È vicina. Ivo Bano si siede tra il pubblico vicino a lui, gli dice all'orecchio. No, figlia, non ti scoperò. Perché questa è una performance di teatro contemporaneo. Intendo, questo è il motivo per cui gli parla all'orecchio. Beh, mi sono immaginata il gentiluomo in pelliccia, ma ancor di più ho immaginato una signora in pelliccia che... Inorridita. Diceva che questo spettacolo teatrale contemporaneo la disturba. Perché si prende gioco della tragedia umana. E poi la signorina in pelliccia dice alla signora in pelliccia che l'autrice del testo deve aver subito abusi in gioventù. E allora la signora in pelliccia dice: povera creatura, povera ragazza. E ancora: povera, povera creatura. E improvvisamente si sente meglio. Si sente meglio perché è così profonda da poter perdonare questa povera piccola creatura che ha scritto questa presa in giro dell'arte drammatica, perché ha sofferto così tanto nella sua vita. Si sente meglio perché capisce. Si sente meglio perché è addolorata per la giustizia, l'ingiustizia di questo mondo. Addolorata a tal punto che domani andrà all'ufficio postale e verserà 8,50 € alla casa rifugio. Anche se l'ufficio postale non è sulla strada per la farmacia, dove compra la sua crema Vichy a 24,99 €, che la fa sembrare più giovane di quanto non sia. Nonostante la pelliccia. E proprio mentre la signora in pelliccia sta pagando la sua Vichy schifosamente costosa, ma che ne vale proprio la pena, il gentiluomo in pelliccia sta usando la cintura sul proprio figlio. Perché ha usato un pennarello indelebile per disegnare dei baffi a tutti i bambini della rivista Io e il mio bambino. Ma mi immaginate, gentiluomo in pelliccia con i pantaloni che cadono perché non indossa la cintura? Beh, cominciava così, con questa battuta, e poi, come ho detto, solo allora feci domanda al bando del Teatro Glei. E solo allora la direzione dell'Associazione Culturale Integrali decise che l'associazione stessa avrebbe prodotto il progetto. E la direzione del Teatro Glei accettò la coproduzione. E poi fu il turno della stazione successiva. Ovvero la candidatura per il bando successivo a livello successivo, lunedì 3 novembre 2008. Avevo ancora l'acqua alla gola. Cioè, allora, quel 3 novembre dell'anno scorso, quando dovetti inviare i documenti. Il 18 ottobre tornai da New York. Il 19 ottobre presi un volo per la Danimarca e tornai il 25. E il giorno stesso andai a Maribor per mettere in scena due repliche di Io la vittima al Festival Bosnic di Maribor. E rimasi là per due giorni, perché il lunedì avevo un altro spettacolo e poi tornai in ufficio. Non mettevo piede in ufficio da settembre, cioè. Potete immaginare quanto avessi l'acqua alla gola? Avevo davvero l'acqua alla gola. Non avevo assolutamente il tempo di lavorare a quest'idea. E anche se avessi avuto tempo, non sono proprio in grado di scrivere concetti. Con le finanze non ho alcun problema, perché ho lavorato come contabile per diversi anni. Ma ve l'ho già detto? No, non ve l'ho detto. Credo. Guardo verso di te. Ti guardo. Inspira ed espira. E realizzo che ovviamente lo sai già. Tutti quelli che vengono allo spettacolo lo sanno. In sostanza, mi piace occuparmi di finanze, cioè spostare i numeri a destra e a sinistra. Ma scrivere concetti mi uccide, letteralmente. Mi blocco, non ho idee. Onestamente, non ho idee. Allora chiedo a un collega di scrivere un concetto per me. Basandosi sulla candidatura al Glei, il mio collega scrive quanto segue. Leggo, come se stessi leggendo. Dammi di più. Titolo provvisorio. È un progetto che si interroga sul fenomeno dell'incesto. Il divieto sessuale supremo e primario. La sessualità proibita tra membri stretti di una stessa famiglia. Nel caso del progetto in questione, l'amore proibito tra padre e figlia. Tratta i modelli della stigmatizzazione dell'incesto, i tabù, i modi in cui emerge in pubblico e come viene presentato dai media in modo da generare ulteriori tabù. Tratta i diversi processi di normalizzazione sociale e le patologie che la società stimola. Smetto di leggere come se stessi leggendo. Ti guardo. Stimatissimo pubblico. Magari ti guardo con la stessa intensità con cui poco fa Polona Yu ha guardato il gentiluomo in pelliccia. Quello con il cappello, una 24 ore, programma di sala. E nella 24 ore la rivista Io e il mio bambino. Potrei guardarti con la stessa intensità. Quindi è quello che ho appena fatto, no? Voglio dire, trattare l'incesto, o più concretamente l'amore proibito tra padre e figlia. Ho anche affrontato i modelli di stigmatizzazione e i tabù. Nel punto in cui la signora in pelliccia dice che non le importava di questo spettacolo teatrale contemporaneo, e poi la signora in pelliccia risponde che è perché l'autrice ha subito abusi. E allora la signora in pelliccia si calma, perché adesso questa decadenza aveva una causa e poteva essere sanata con 8,50 €. Casa, rifugio e simili, giusto? E considerando che il gentiluomo in pelliccia si sta facendo una sega nella toilette del teatro, cioè mentre la signora in pelliccia e la signorina in pelliccia discutono sul terribile destino di questa povera giovane creatura. Come si chiamava? Vabbè. Considerando che nel frattempo il gentiluomo in pelliccia si sta facendo una sega sulla rivista Io e il mio bambino nella toilette del teatro, penso di aver spuntato anche le patologie stimolate dalla società. Leggo, come se stessi leggendo. Prima di cominciare magari mi schiarisco la voce o qualcosa di ugualmente insulso per segnare il cambio. per avvertirti che adesso sto leggendo come se stessi leggendo. Il progetto in scena combina diversi tipi di messa in scena, recitazione e performance, e le loro presenze, utilizzando allo stesso tempo diverse modalità di presentazione artistica e i loro formati per una reciproca polemica e problematizzazione dei contenuti. Ad esempio, monodramma contro performance, teatro contro performance art, illusione contro irreale. Inspira, stimatissimo pubblico. Espira. Inspira. Ti guardo. Anche questo, cari miei, l'ho spuntato, no? Ecco perché ho un cast appagato sul palco, no? Diversi tipi di messa in scena, attori e performers, e la polemica, l'illusione contro il reale, tutto quanto, ok? Procediamo. Inspira. Espira. Il progetto prevede la partecipazione delle attrici Medea Novak e Lara Jankovic e della performer Simona Semenic. Il sottotitolo del progetto è La mia vagina rientra perfettamente nella media delle vagine occidentali con tutte le parti al loro posto, quindi mi chiedo quand'è che mi abbiano tagliato il clitoride. Con questo progetto Simona Semenic prosegue la pratica performativa iniziata con la performance autobiografica Io la vittima, che ha debuttato nell'ambito del Festival Città delle Donne nel 2007. Qui mi fermo. Quindi, nel momento in cui feci domanda per il bando del secondo ente... Secondo in senso cronologico, non sia mai che venga il sangue amaro a qualcuno, non secondo di importanza. Un'altra attrice entrò a far parte del progetto, Lara Jankovic. Il motivo è abbastanza banale. Mi servono più artisti per avere più compensi, per avere più budget, così da poter chiedere più soldi e di conseguenza ottenere più fondi. Sorriso maliziosamente. E poi perché Lara è mia cugina. E perché questo è il nostro primo spettacolo insieme. A meno che non consideri quello di 30 anni fa, in via Torbanisca 3C ad Aidussina, quando avevamo montato un palco nella dispensa e messo in scena una favola. Credo fosse una favola su una castagna. Non ricordo di preciso cosa facesse la castagna, ma questo fu senza dubbio l'inizio della nostra carriera teatrale. Anche questo mi fa sorridere maliziosamente. Stimatissimo pubblico. Il mio nome è Simona e vorrei avere un fidanzato. Poi arriva la prossima fermata. Avete notato che tutti questi bandi, così come il momento in cui mi è venuta l'idea, li chiamo fermate o stazioni? Intendo dire che l'arte è una via crucis. Io sono Cristo e l'arte è la croce. Mi scuso per la digressione, ma devo spiegare da dove mi è venuta l'idea per questo sottile dettaglio. Oltre alla rivista Io e mio bambino, c'è anche la rivista Mamma, leggermente meno indicata per la pornografia infantile, dato che contiene meno immagini succose. In sostanza, una volta, quando andai con il pancione a fare una visita medica, in sala d'attesa mi capitò tra le mani un numero della rivista Mamma, dove trovai l'articolo intitolato I 10 comandamenti dell'educazione morale, che traduceva i 10 comandamenti in comandamenti per l'educazione dei figli. E qui cito: perché i comandamenti oggi non sono rivolti solo alle persone religiose, ma a ogni persona responsabile. Per esempio, il comandamento non commettere adulterio veniva tradotto dalla rivista Mamma come non tradire, non consumare pornografia e non prostituirsi. Questo comandamento invitava i genitori a spiegare la sessualità al bambino in modo positivo. Spiegargli che il sesso è una ricompensa del vero amore e che deve essere preservato come una perla. Ti guardo con serietà. Ti guardo con serietà perché vorrei capire se sai cos'è il vero amore. Stimatissimo pubblico, lo sai? Pensi che il sesso sia una questione di igiene personale? Stimatissimo pubblico, pensi che non valga la pena di considerare né l'uno né l'altro? Espira. Fondamentalmente questa analogia mi ha fatto pensare, e poi ho capito, che se appare nel mensile Mamma, che ha una tiratura di 7.000 copie e oltre 1.000 lettori, che costa 2,99 euro a copia e solo 35 su 76 pagine sono senza pubblicità. Sapete com'è? È una rivista seria. Allora posso sicuramente prendere in prestito questo messaggio sacrale per scopi artistici. Ma in realtà tutte queste interpretazioni dei comandamenti mi hanno ispirato. E ora mi piacerebbe condividerle tutte con voi, insieme a un altro passaggio tratto dalla rivista Mamma, o forse da Io e il mio bambino, o da qualche altra pubblicazione che praticamente ti tirano dietro da quando hai il pancione. Ma comunque penso che non sia il momento qui ed ora, perché devo passare alla fermata successiva, o meglio stazione. Allora, la stazione successiva è un appello contro la proposta della commissione. Anche in questo caso, per chi non lo sapesse, vorrei spiegare. Chi Chi di voi sa come funzionano le procedure legate a bandi, ricorsi, requisiti e rapporti, può indicare questo tempo per immaginare un gentiluomo in pelliccia che legge i 10 comandamenti dell'educazione morale sulla rivista Mamma, mentre alla moglie incinta, tra una contrazione e l'altra, viene fatto un clistere. Quindi, per chi di voi non sa come funzionano queste cose a Kafkaland, funziona così. Primo, si fa domanda per il bando. Questa l'abbiamo spuntata. Poi, una commissione composta da più membri esamina la domanda. Quindi, si riceve una notifica per la proposta della commissione. E si deve esprimere il proprio parere su questa notifica entro 5 giorni. Io lo chiamo ricorso. Anche se de jure non è un ricorso. Beh, insomma. Devi esprimere la tua opinione in merito. Devi dire che i soldi non sono abbastanza. Così hai la possibilità di racimolare qualche soldo in più. Perché cazzo, in una democrazia hai la possibilità di esprimere una tua opinione. Dopo aver espresso la tua opinione, ottieni una delibera. Poi devi firmare un contratto. Ovvero lo stesso contratto per cui siamo qui oggi. E ottieni una delibera. Poi, una volta firmato il contratto, presenti la prima richiesta. Per la prima parte di denaro e poi devi presentare la seconda richiesta e poi la relazione finale. A volte capita anche che la richiesta 1, la 2 e la relazione si possano presentare insieme. Naturalmente tutte queste fermate sono separate per ogni istanza. Quindi in totale 12. Inclusa la firma del contratto più l'idea iniziale. Più la domanda al bando del Teatro Glei e siamo a 14 fermate. Senza essere arrivati nemmeno alla prima prova. Ma sapete cosa? Forse è il contrario. Forse... Io sono la croce e l'arte è Gesù. Il gentiluomo in pelliccia si sente bene perché sta crescendo i suoi figli nello spirito prescritto dai comandamenti. Si sente bene anche se è nervoso per via del parto. È nervoso ma molto meno della prima volta perché da allora ha visto venire al mondo altri 3 dei suoi figli. Quindi la prossima fermata è il modulo di ricorso del 12 gennaio 2009 in cui è scritto... Ti guardo. Sei a disagio. È perché ho mancato di sensibilità. Credo di essere andata un po' troppo oltre con questa storia dell'uomo in pelliccia. Ha esaurito il suo impatto. Dovrò eliminarlo dal prossimo spettacolo o perfezionarlo. In modo che tu non ti senta a disagio, stimatissimo pubblico. Inspiro. Espiro. Leggo velocemente, come se stessi leggendo velocemente. Egregio signore o signora, in conformità con l'articolo 13 del regolamento dei bandi pubblici e in seguito alla comunicazione dei risultati del 5 gennaio 2009, con la presente inviamo la risposta alla proposta della Commissione in merito all'ammontare dei fondi stanziati per il progetto Dammi di più di Simona Semenic. E ringraziamo per la fiducia accordataci, il progetto è già in fase di realizzazione ed è emersa la necessità di ulteriori finanziamenti. Gli artisti affrontano i modelli di stigmatizzazione dell'incesto e del tabù. Temi che cercano di definire attraverso il prisma della femminilità e del femminile nella società. Sulla base di ciò sarebbe necessario condurre una più concreta ricerca insieme a esperti o esperte del settore. Vorremmo per questo includere nel progetto Stanislava Chrakova Repar e Svetlana Slapsak. Vorremmo inoltre pubblicare un programma di sala con relative riflessioni teoretico-filosofiche, cosa che aumenterebbe ulteriormente i costi per lo spettacolo. Chiediamo pertanto un supplemento di 2.850 euro. Vi ringraziamo per la vostra comprensione e il vostro sostegno. A nome dell'Associazione Culturale Integrali, Simona Semenic, presidente dell'associazione. Mi prendo un momento. Questa è stata una violazione dell'ottavo comandamento. Con facilità e senza un briciolo di senso di colpa, avevo sparato una marea di stronzate per racimolare qualche soldo in più. Ma non avevo tempo, davvero. Non avevo davvero tempo di pensare a questo progetto. Proprio il giorno in cui dovevamo inviare il ricorso, c'era il debutto dello spettacolo a Copenaghen. Che momento. Per favore. Anche se, mano sul cuore. Mi metto la mano sul cuore, almeno nel punto in cui presumo che ci sia il cuore. In quel momento pensavo davvero che avremmo pubblicato un programma di sala con un testo e... Mi metto la mano sul cuore, almeno nel punto in cui presumo che ci sia il cuore. Ancora oggi penso che ci sarà un programma di sala. O meglio, ho intenzione di fare altre 3 o 4 performance, sempre con un testo leggermente diverso. Ogni volta migliore, spero. E alla fine pubblicare un programma di sala con un testo integrale. Che in questo caso sarà una raccolta di testi a partire dalla versione beta. Cioè, da questa versione in poi. Non includerò nessuno degli esperti sopra elencati nel progetto. Magari nel prossimo. Ma poi ho continuato a non avere tempo. Ma quando l'ho avuto, mi sono seduta di fronte a un cursore lampeggiante e ho passato ore e ore a fissare il cursore lampeggiante. Quando compilo i registri delle spese di viaggio, i contratti e i bandi, non c'è nessun cursore lampeggiante. Lo faccio e basta. Non perdo tempo, sono produttiva. Perché adesso non è così? Perché questo stronzo... Scusate il francesismo. Fanculo? Ma perché cazzo questo stronzo non smette di lampeggiare? Così. Mi metto la mano sul cuore, almeno nel punto in cui presumo che ci sia il cuore. Mentre stavo esaurendo il tempo a disposizione, tra la prima e la 14ª fermata, mi sono dimenticata cosa stessi cercando di dire con questo spettacolo. In realtà non avevo esaurito il tempo. La verità è che non ho niente da dirvi. Non perché non avrei nulla da dire in generale. Ma perché ho dimenticato quello che volevo dire. E qui cito John Cage. Non ho niente da dire e lo sto dicendo. Faccio un passo verso di te. O forse solo mezzo passo. E se posso, in questo momento, mi alzo in piedi di fronte a te. Ti guardo negli occhi. In modo che tu non possa distogliere lo sguardo. In modo che tu non possa trovare scuse. In modo che tu debba guardarmi. Inizio a parlare a raffica. Proprio come mi è successo con Mattatoio numero 5, ieri pomeriggio, quando ho deciso di prendermi una pausa dall'essere un artista e per cambiare consumare arte. Su Cinemax davano Mattatoio numero 5 alle 21.45. E volevo vederlo assolutamente. Mi sembrava di aver letto il libro. Ricordavo persino dove e quando. Al mare, al campeggio Yazizna a Tisno nel 2006. O forse nel 2007. Ma la storia, niente. Non ricordavo nulla. Così ieri stavo per mettermi a guardare Mattatoio, ma poi mi è venuto in mente che forse avevo già visto anche il film e non ricordavo nemmeno quello. Quindi è così che succederà fra qualche anno. Mi dimenticherò di quanto sono innamorata in questo momento. Non ricorderò niente di questa storia. Forse a un certo punto sentirò una fitta allo stomaco. Una fitta che rasenta il dolore. Che è quasi dolore, ma non lo è. È una specie di tensione. Forse un giorno in futuro sentirò questa stessa fitta e mi ricorderò qualcosa, ma non saprò cosa. Non ricorderò cosa mi ricorda quel dolore. Quella tensione che ieri alle 21.43 ho sentito nello stomaco quando stavo per mettermi a vedere Mattatoio numero 5. Che non ricordavo se avessi già visto e non ricordavo se avessi già letto. Alle 21.43 mi dirigevo verso il mio divano Ikea. Quello che mi ha regalato Lara, mia cugina. Il mio divano Ikea nella mia piccola cucina. Mi dirigevo sola verso il divano Ikea che mi ha regalato mia cugina. Con quella tensione nello stomaco, perché ero sola, anche se avrei voluto così tanto che tu fossi lì, ad abbracciarmi mentre guardiamo insieme Mattatoio numero 5. Il film che non avevo idea se avessi già visto. Che tu mi abbracciassi, ma senza una ragione precisa. Non per qualcosa di sublime come quello che la rivista Mamma chiama il vero amore. Niente di simile, ma per una banalità. Semplicemente perché ero stanca. Esausta. Così stanca. Che l'unica cosa che riuscivo a fare era sdraiarmi sul divano Ikea. Un regalo di mia cugina Lara. Accoccolarmi a te per guardare insieme Mattatoio numero 5. Un film che non avevo idea se avessimo già visto o no. Non lo sappiamo e non ci importa. Forse questo è vero amore. Che non ci importa se abbiamo già visto Mattatoio numero 5 o no. Perché l'unica cosa che conta è questo abbraccio. Forse questo è il vero amore. E possiamo prenderci il nostro tempo. Scopare come conigli e proteggerci a vicenda come perle d'ora in poi. Sì, magari. Se tu fossi su questo divano Ikea con me. Ma sono sola su questo divano Ikea, con questa tensione nello stomaco. Una tensione che rasenta il dolore, che è quasi dolore e che tra un paio di fermate non ricorderò nemmeno più. Smetto di parlare. Mi guardi. Non riesci a trovare scuse. Non distogli lo sguardo. Sei di nuovo a disagio, ma questa volta è diverso. Prima eri a disagio perché avevo divagato. Anche adesso ho divagato, ma sei a disagio perché... Mi dimenticherò di te, stimatissimo pubblico. Beh, mentre mi stavo dimenticando, ho fatto un paio di fermate. Nulla di significativo era cambiato nel concetto, fino alla prima richiesta del 10 aprile 2009, quando apparve anche l'attrice Damiana Cerne. Avevo esaurito i contratti per le richieste. Ah sì, per chi non lo sapesse, quando mandiamo richieste di denaro, dobbiamo allegare la prova del denaro speso. Contratti, fatture, note spese di viaggio. Dato che al momento non avevo prove. Lo spettacolo era previsto per la seconda parte dell'anno. Redassi dei contratti falsi, violando di nuovo, fanculo, i comandamenti dell'educazione morale. Quindi, redassi dei contratti falsi, firmando io stessa per le attrici, perché... E ormai lo sai qual è il gesto. Stimatissimo pubblico. Non avevo davvero tempo per rincorrere le firme in giro per Lubiana. Il nuovo debutto era a momenti. Davvero, Non avevo tempo. Stimatissimo pubblico. Il mio nome è Simona. Ho gli occhi castano scuro. Porto il 39 di scarpe, ho 34 anni, sono alta 1,71. Non ho mai indossato nulla color oro. Una volta l'anno o due mi faccio la pipì a letto. Quando ero piccola, in queste occasioni, disegnavo nuvole sul mio quaderno. Sono presidente e presidente. Con il mio dramma Fiveboys.si mi sono finalmente posizionata tra i più radicali e di conseguenza più interessanti drammaturghi sloveni contemporanei. Sito internet del Teatro Municipale di Lubiana. Sono una body artist? In un certo senso lo sono, anche se di fronte a voi non intervengo in alcun modo sul mio corpo. Sono state le mie malattie a farlo per me. Tania Lesnik-Rapucco, Dnevnik. Sono una ragazza da abbracciare, stringere al cuore ed essere felici. Davor, Vest. Sono una delle poche donne che mangia la trippa. Andrea Kopacz. Digressione. Ecco perché. Voglio dire, questo è il motivo per cui mangerete la trippa tra un paio di minuti, insomma. Non c'è nessuna ragione sublime, come un contratto o qualcosa del genere. Solo il fatto che io sono l'unica donna che Andrea Kopacz conosca che mangi la trippa. Quindi, chi di voi è rimasto fino ad ora per scoprire il motivo per cui avrei servito la trippa alla fine, adesso può andarsene in pace. Sono una donna che non scherza. Tutto quello che voi uomini potete fare di fronte a me è proteggere timidamente i vostri organi riproduttivi. Mattia Zorek, Portal Dick. Le mie malattie sono i miei meccanismi di identificazione inconsci che lentamente crescono fino a diventare un'affermazione consapevole, un sintomo al lavoro, una produzione di dolore. Blaz Lukan, Masca. Le mie opere sono formalmente distinguibili solo attraverso il prisma di un segmento, un frammento che non è attraversato da eventi spartiacque. Inizio e fine non svolgono la loro consueta funzione entro la triade retorica strutturale di inizio, parte centrale e fine. Rock Vevar, i vincitori del premio Groom. Se Ripley di Alien 3 è stata la prima protagonista femminile di un film ad assumere un ruolo maschile, trionfando sul cataclisma totale, allora io, come vittima, ho tolto questo ruolo dal totale cataclisma per portarlo alla sottile esperienza della donna protagonista, con la ciliegina sulla torta, di aver conferito un valore aggiunto al quotidiano. Mattias Zorek, Portal Dick. Sono campionessa mondiale nella ricerca di soluzioni rapide ed efficaci. Rock Vevar, portale Sigledal. Quando avrò un fidanzato, gli preparerò ogni mattina il cestino per il pranzo da portarsi al lavoro. Ti guardo, forse di nuovo intensamente. Ballo per te. Una volta andai a un workshop di Martin Spangberg e alla presentazione ballammo la Shrimp Dance. Ho dimenticato la shrimp dance e ora non è più la shrimp dance. Ma è qualcosa di simile. Forse in sottofondo si sente suonare Nina Simone. For Women. Forse questa canzone è troppo scontata. Forse sto ballando su un brano più vivace. Forse sto ballando su My Baby Just Care For Me. Hai la sensazione che stia per arrivare la fine. Un applauso e finalmente riceverai la trippa che ti avevo promesso. Ti sbagli, o meglio, non ti sbagli del tutto. Ti sbagli solo in parte. Ti porto la trippa. Mentre ti porto la trippa, stampo il testo. Mentre mangi la trippa, ti metto il testo in mano. Il testo che è anche il programma di sala e il volantino. E alla fine, guarda. Mi guardi. Che te ne fai di questo? Sì, leggi. No, perché mi guardi? Guarda il testo, non me. Questo fa parte del tuo spettacolo. Che ora tu mangi la trippa in pace e leggi il testo in pace. Ti guardo, quando ti è chiaro. Mi siedo. Sorrido. E non ho niente da fare mentre tu leggi. La luce è su di te, stimatissimo pubblico. Così che tu possa vedere bene quello che leggi. Ti guardo mentre leggi sotto la luce. Leggi. Applaudi. Cioè, se vuoi. Se vuoi applaudi, se non vuoi non applaudire. Voglio dire, non devi applaudire se non vuoi. Anche se le didascalie dicono così. Grazie, grazie di essere qui e non a vedere l'Inter. E niente, vabbè, insomma, penso che il testo abbia parlato per sé. Poi non so se Marti o Giulia volete aggiungere dei commenti al testo, visto che prima ho fatto un po' una intro. Se volete dire qualcosa voi. Ah no, certo, se ci sono visto che il pubblico dovrebbe dire essere... qualcosa anche voi, se siete ancora, esatto, vivi. Amore, hai ragione, non ci siamo. Potremmo chiedere a Exalge se ci regalano una bella trippa stasera. Per il gas. Infatti, di stasera. Forse Simone è l'unica persona che mangia trippa, perché io, per esempio, proprio una roba che non... Anch'io detesto. Avrà delle origini toscane. Può essere, in qualche modo, sì. No, io mi chiedevo un po', ero curiosa di sapere da te, perché io comunque il testo lo conosco molto bene, avendolo tradotto. Certo. Come, perché questo testo, a differenza del primo, è un po' più complicato, un po' più complesso. Quindi, da attrice, com'è interfacciarti con un testo del genere dove non succede nulla? Perché non succede nulla? Cioè, è il pubblico che alla fine... Lo spettacolo è che il pubblico legga il testo. Sì. Quindi lei proprio prende i soldi e non li restituisce. Sì, cioè, di fatto, anzi, è un testo che... Non è quasi uno spettacolo, cioè penso che almeno quando io l'ho letto ho avuto molto la percezione che fosse quasi un libro da leggere, cioè neanche immaginarlo performato, a differenza della prima puntata, in realtà penso anche dell'ultima che avremo, che penso sia un po' una consecuzione del primo testo di Io la vittima, sì. No? È quasi un testo, è molto didascalico e entra molto nel merito di un processo, diciamo, produttivo e performativo. Non teatrale, quasi, mi sento di dire. No, sicuramente va oltre il post-drammatico, cioè proprio la narrazione qui è scompaginata completamente, quindi entrarci dentro in realtà, paradossalmente, rispetto magari a un testo drammatico classico, sembra assurdo, ma entrarci dentro è più semplice. Proprio perché è talmente onesto con se stesso, lei è onesta con se stessa, perché che motivo avrebbe di mentire? Sta parlando con se stessa e con un immaginario pubblico, e soprattutto, vabbè, io scrivo anche, quindi leggere e avere a che fare con un testo così, sia da interprete sia da chi bene o male qualcosa sulla drammaturgia la conosce, è interessantissimo, soprattutto perché appunto non conosce mezze misure. È completamente aperto come modo di scrivere, di buttare pensieri sulla pagina, e detesto questa parola, ma è per farmi capire, è coraggioso. Detesto questa parola perché sembra quasi una gentile concessione. Dio, come sei coraggiosa a scrivere queste cose. È un discorso che, francamente, soprattutto per quanto riguarda le autrici, è qualcosa che non amo dire. Proprio perché sì, siamo coraggiose a scrivere determinate cose, ma non è quello che ci definisce, ci definisce quello che diciamo. Infatti qui Simona non le manda a dire a nessuno, quindi è estremamente diretta e non fa sconti a nessuno, neanche al pubblico, soprattutto al pubblico. Richiede onestà pura anche da parte di chi la guarda e chi la immagina, perché poi si deve immaginare delle cose orribili, no? Esatto. E quindi alla fine ti rende anche responsabile nell'immaginare queste cose. Esatto, esatto. Quindi è qualcosa a cui sicuramente noi in Italia non siamo abituate, perché noi siamo sempre molto accondiscendenti nel nostro modo di scrivere, spessissimo, e anche a discapito di un'autenticità che forse... anche forse, che sicuramente in un periodo storico come questo, dove l'arte deve essere più politica che mai, le buone maniere forse dovremmo lasciarle un po' a casa. E in questo caso Simona, anche come interprete, cioè la segui, se lo leggi nella tua testa e poi lo leggi a voce alta, poi mi piacerebbe sapere cosa ne avete pensato voi, perché ovviamente, appunto, sì, per rimanere nello... Ma infatti sarei curiosa di sapere, se qualcuno volesse intervenire, la percezione del pubblico sullo spettacolo. Se è stato complicato da seguire, se... sì, so, insomma, come siete, vi siete devastati, sentite, devastati, sì. Morti devastati. sulle sedie. Vabbè, comunque, se volete ne parliamo davanti a una birra, non davanti a un microfono, che fa sempre paura. Però sì, è un viaggio pazzesco, e spero che la nostra Martina ne faccia, ne traduca, sì, poi, altri. Ecco. Questi testi che ci sono nel libro, che si chiama Mi senti, raccoglie questi tre monologhi, sono gli unici monologhi di Simona, perché poi gli altri testi includono più personaggi. Invece in questo caso lei proprio mette al centro la sua condizione come vittima di varie situazioni a seconda dei ruoli che interpreta nella società. Quindi mi piacerebbe tanto andare avanti a tradurre anche i testi che invece coinvolgono più personaggi, che sono più, diciamo, teatrali. Perché, che escono un po' da sé. Sì. No? Mm-hmm. E trattano, vanno a toccare storia, cronaca, attualità, finzione, mischiano tutto. E quindi sono molto molto interessanti. Quindi appuntamento a quando Martina avrà tradotto tutti gli altri. Poi diventeremo schizofreniche, perché leggeremo mille personaggi allo stesso tempo. Io avrei una domanda da farvi che forse è un po' estemporanea da Simona Semenic, nel senso che proprio perché portiamo una, insomma, anche Cabaret Extra Voltaire ha un po' questo intento di portare un tipo di drammaturgia un po' particolare sul palco, e visto che in parte siete, anzi non in parte, insomma, forse più Martina, ma diciamo siete anche attrici oltre che autrici, forse vi chiederei un commento su quello che vi sembra essere un po' la, diciamo, la prospettiva teatrale, non so se italiana o milanese in questo momento, sia da un punto di vista critico che anche no, cioè, però insomma, forse dare un po' più di contesto a in questo senso a quello che c'è oltre qui a questo palco stasera. E, non so, almeno dal mio punto di vista, molto, cioè sono solo un'appassionata, non una pratica del mestiere, mi sembra che ci sia tantissimo a Milano, cioè ci siano tantissimi teatri, diciamo, importanti, significativi, che hanno scelto forse anche per una sopravvivenza, no? Cioè, perché poi alla fine quello che porta questo testo è anche dimostrare quanto poi effettivamente sia difficile lavorare in questo contesto, e che è inutile che ci raccontiamo che finché fai delle cose interessanti hai un pubblico, cioè poi di fatto bisogna campare e quindi bisogna fare bandi per avere fondi, fare, no? Spettacoli da non restituire. Esatto. E quindi invece mi sembra che ci sia molto una scelta quasi cinematografica, molto, magari, che punta anche molto ad attori importanti, e che poi magari si punti a rivisitare dei testi molto classici, non so, penso che poi il pubblico del teatro sia anche molto faticoso da attirare, quindi magari se sono scuole o, non dico anziani, però insomma... Sono più vecchi che diciamo, poltrone. Il teatro contemporaneo fatica a vivere, e quindi non so, per me personalmente i teatri a cui mi affiglio sono magari, non so, l'Elfo Puccini o quello della Triennale, in cui magari più che altro perché invitano anche invece compagnie teatrali più contemporanee e particolari, che fanno dei lavori anche un po' irriverenti, no? E invece, non so, il Piccolo Teatro piuttosto che il Franco Parenti mi sembra che abbiano una scelta piuttosto classica, no? E poi appunto non voglio assolutamente criticare, perché non so, poi ripeto, penso sia difficile sopravvivere, però mi sembra che un po' la prospettiva sia questa, no? E tra l'altro penso che Milano sia un palco teatrale molto importante sull'Italia, cioè forse più che Roma, non so come dire, o Firenze, che è un tema. Quindi in realtà poi però mi sembra che ci sia difficoltà a far uscire fuori questa cosa, e quindi anche a conoscere queste vie sperimentali, no? E quindi non so se anche voi avete dei consigli o delle prospettive su qual è il teatro sperimentale contemporaneo che vi sembra più efficace. Quanto tempo hai? Tanto. Dalle 5 alle 6 ore. Io sto qua tutta la sera. No, abbiamo tempo fino a mezzanotte. Non so, io apro il libro, Martina. Se devo aprire il libro, lo apro. Un libricino. Sì, aprilo, Giulia. No, vabbè, ma se hai qualcosa da dire prima, tu dillo, che io poi mi dilungo troppo. La domanda è... esatto. La domanda è... Qual è la tua, cioè, come dire, la tua prospettiva sul teatro contemporaneo oggi a Milano o anche in Italia più in generale? Cioè, però in un modo soggettivo, cioè anche banalmente dicendo quello che pensi che valga la pena e quello che no. Vabbè, se sicuramente, come hai detto, per esempio il teatro della Triennale dell'Arte ha una buona proposta, ma comunque a volte gli ambienti più interessanti sono quelli più off, in cui... magari non sono neanche troppo noti e vai un po' per conoscenze, perché purtroppo secondo me è difficile riuscire ad arrivare nel mainstream, nella proposta quella classica del vabbè, spesso e volentieri non, la sperimentazione non viene messa in programmazione, anche capita. Se io trovo che molte autrici, soprattutto nella drammaturgia femminile, stiano sperimentando, ci sono teatri tipo l'Elfo Puccini, tipo la Triennale, a volte anche il Piccolo, con alcune cose che ospitano anche dei tentativi un po' più anticonvenzionali. Poi ci sono i festival. Ma i festival invece sono forse... Da un punto di vista pratico proprio, dico, in cosa riconosci questa sperimentazione, no? Cioè, come vedi che si è evoluto il teatro contemporaneo e quindi cosa, per esempio, anche banalmente ti attira nell'andare a vedere uno spettacolo, cioè piuttosto che andare a vedere, non so, l'Amleto, non so, cioè nel senso un classicone. Quando il teatro non vuole essere didascalico o comunque utilizza appunto l'importanza dell'essere presenti qui e ora e magari va oltre un po' alla... cioè non ti fa lo spettacolo in cui vedi tutto quello che viene messo in scena, ma magari utilizza diverse strategie per renderti il più partecipe possibile. Cioè per me è importante che io mi senta coinvolta e secondo me oggi è difficile coinvolgere perché siamo partecipi di tutto, cioè ormai lo spettatore è tutto più immersivo, quindi quanto più è immersivo secondo me tanto più arriva, o se allora si fa carico di esce fuori dalla storia e entra nella realtà e entra a parlare di temi tabù, di indagini. Cioè, per esempio io amo molto la drammaturgia di indagine in cui c'è una ricerca dietro di un autore o di un'autrice su magari delle tematiche, casi che non possono essere trattati in televisione, nel cinema, e quindi il teatro, visto che da un certo punto di vista è più in zone d'ombra, allora può farlo perché c'è meno censura, però lì è sempre in territorio di sperimentazione, e quando il teatro decide di parlare fuori dai denti o comunque senza filtri, allora lì mi interessa, allora lì mi coinvolge e non c'è bisogno che io venga inserita all'interno di una cosa immersiva, ma già a livello mentale mi chiede di uscire fuori da uno schema e allora mi mette in difficoltà, mi muove, allora mi interessa. Cioè per me è questo, però in generale non so se è quello che oggi sta accadendo, in alcuni casi sì, in altri purtroppo no, è difficile e io sono molto esigente con... Io quando vado a teatro difficile che io esca contenta, esco spesso incazzata perché non mi è arrivato, invece quando mi ha mosso allora sì, sono felice perché è quello che voglio, cioè la catarsi, quella cosa lì, mi deve arrivare qualcosa, mi deve muovere qualcosa. Apro il libricino. Allora, secondo me bisogna fare una distinzione fra teatro contemporaneo e teatro sperimentale, perché ovviamente sono due cose diverse. Entrambi i tipi di teatro diciamo incontrano diverse difficoltà sul mercato, specialmente italiano, ma perché il pubblico non è vero che il pubblico non è pronto. Il pubblico dei grandi teatri, oppure i grandi teatri, pensano che il loro pubblico non sia pronto, quindi magari riservano a spot, quindi magari edizioni di festival particolari, specialmente parlando di grandi istituzioni, dove effettivamente, parlo del Piccolo, adesso ha un direttore artistico particolarmente sgamato, particolarmente intelligente, quindi sa, riesce a capire, soprattutto le curiosità che può avere una città come Milano, quindi è sgamato e quindi va a cercare cose, e quindi festival di immersioni, e poi c'è quel festival, brava, esatto, non mi veniva il nome, bravissima, presente indicativo, quindi avanguardie, nomi storici dell'avanguardia teatrale, comunque diciamo mondiali, perché c'è anche un sacco di gente che viene non solo dall'Europa, ma quindi sicuramente c'è sempre un discorso di guadagno dietro, ma giustamente, come normale che sia. ci sono tante realtà che invece fanno di questo, sono ovviamente, come diceva Martina, off, nel senso che non godono di finanziamenti, però si nutrono di menti curiose e particolarmente, diciamo, che per quanto riguarda la ricerca, l'avanguardia teatrale, in realtà ha una nicchia particolarmente sviluppata. Ad esempio, mi vengono in mente Zona K, che ha una bellissima programmazione. Se vi interessa quel tipo di linguaggio, è sicuramente molto interessante da approfondire. Oppure Zia, Zona Indipendente Artistica, che è anche lì progetto virtuosissimo e speciale, perché fondato da un collettivo di artiste donne, molto d'artiste donne, perfetto, artiste sufficiente, molto, insomma, molto sul pezzo, che sicuramente attingono tutta una serie di sensibilità nuove. Invece il teatro contemporaneo, quindi drammaturgia contemporanea, in realtà fa gola ultimamente, fa gola. Peccato che però soffra di una gestione scriteriata del teatro di giro, nel senso che le compagnie, magari grosse produzioni, perché ai noi certi testi, io sono una nerd della drammaturgia contemporanea britannica specialmente, proprio lì divoro tutto quello che viene prodotto nella perfida Albione, tanti testi vengono qui tradotti, arrivano in Italia, ma vengono affidati a compagnie grandi, quindi si, diciamo, perpetra lo stesso discorso di sempre, se la cantano e se la suonano tra di loro, ai noi. E questo, diciamo, che enfatizza il discorso di cui parlava Martina, il fatto che quando vado a teatro, anche io sono una rompicoglioni terribile, raramente dico: ah, ho visto qualcosa che mi ha smosso la pancia. E soprattutto quando vado a vedere testi che conosco sulla carta e ne conosco il potenziale politico e trasformativo, vengono messi in scena con un atteggiamento vecchio, pedante, paternalista, che a me fa venire un nervoso mostruoso, e vado a casa e prendo il Gaviscon. Perché purtroppo è una tendenza, ma perché certe produzioni vengono quasi tutte vengono affidate a persone che ragionano in un certo modo, che è vecchio, è affezionato a un modo di fare teatro che non è più, diciamo, non è applicabile in maniera, diciamo, intelligente a questo tipo di testi, e quindi lo traducono in un modo, l'unico linguaggio forse che conoscono e che li appaga, uso il maschile volutamente, e quindi la frittata è fatta. Però io penso che, conosco diverse autrici che invece ci provano, sono giovani, sono under 35, io mi sento che c'è un piede nella fossa, ho 33 anni, ma sarò per sempre un esordiente, vabbè, mettiamocela via. Però comunque ci sono tutta una serie di giovani drammaturghe che provano a scardinare, no, questo discorso, fondano le loro compagnie, provano ad accedere a qualcosa di più strutturato. Certo è che è difficile, è difficilissimo, perché l'imbuto, no, attraverso il quale dobbiamo passare ti strozza, perché a un certo punto esce il precipitato che esce da questo imbuto, è soltanto sudore, lacrime e disperazione, perché fai due date e poi è finito e non le fai più. Quindi chiaramente dei discorsi militanti, in più politica sei, più è peggio, perché ovviamente è più difficile, perché se tu tratti determinati argomenti, poi lo sappiamo benissimo in che clima politico viviamo, dai fastidio, e quindi basta, fai poca strada. Infatti, in questo senso mi chiedo anche se avete in mente, o anche, diciamo, per voi stesse, cioè adesso prescindendo dal fatto che possa avere un appeal sul pubblico, sul teatro, cioè insomma estraniato da un punto di vista, diciamo, economico, produttivo, quali sono le tematiche che sentite che sono necessarie, insomma, fondamentali da portare a teatro oggi? Domanda impegnativa. Non ve l'aspettavate, Sì, sulla scia di Zenon. No, ma non è una, è una veramente una curiosità, cioè, ma non credo, credo che ci sia un giusto o sbagliato. Non ho capito. Vieni, vieni, scusa, così ti registriamo. Immigrazione. Immigrazione. Mm-hmm. Sicuramente, cioè, io credo che il teatro sia un po' una finestra attraverso la quale si possa parlare di tutto. Mm-hmm. E viste appunto quello che sta succedendo oggi nel mondo, si può usare come appunto finestra per parlare di immigrazione, tabù. Un po' a me colpisce molto quello che fa Simona, perché usa il teatro, la scrittura teatrale, per raccontare quello che di solito non diciamo. Perché, quindi, sia dal punto di vista personale, tutto quello che è censurato dalla vergogna, dal pudore, o comunque da questa società che ha imposto di impronta cattolica e paternalista, che ha tabuizzato alcune tematiche, ma poi anche in generale a livello più politico e sociale delle difficoltà che viviamo, ma anche si può parlare anche di ambiente attraverso il teatro. Certo. Adesso c'è molto questo ecofemminismo. Ecco. A me interessano queste tematiche qua. Hai detto la parola magica. Tutto quello che passa per il transfemminismo, secondo me, è all'ordine del giorno, perché essendo appunto femminismo intersezionale, tocca tutta una serie di sensibilità che riguardano le categorie oppresse, quindi persone che hanno un passato di immigrazione, persone con disabilità, persone che fanno parte di comunità marginalizzate, passa tutto da qui. Ma perché? Non perché necessariamente un uomo cis non abbia più niente da dire, ma abbiamo sentito storie di uomini cis, non lo so, dall'inizio dei tempi, hanno avuto loro il megafono in mano. Come dice, come diciamo nella mia associazione, che è Amleta, un'associazione di promozione sociale fondata durante il lockdown, siamo 28 attrici professioniste, noi ci occupiamo appunto di, siamo un'associazione femminista intersezionale che si occupa di discriminazione all'interno del mondo dello spettacolo. Noi diciamo sempre, una volta che si indossano le lenti di genere, quello che si guarda ovviamente è completamente diverso. Infatti io, il mio fidanzato mi dice, ma tu non riesci più a goderti niente, perché effettivamente tutte le serie TV che guardo, i libri che leggo, dico, ah, qui c'è un problema, o necessario, non è magari necessariamente un problema, ma qualcosa che può essere visto attraverso un altro, un'altra sensibilità, un altro punto di vista, e apre proprio lo sguardo. E quando, se chi di dovere se ne accorgerà, spero non sarà troppo tardi, però è, almeno noi che resistiamo facciamo arte militante, ci proviamo quantomeno, so che è una parola forte, però nell'urgenza e nell'onestà in testi come questo di Simona, è lì che sta, no, la chiave di volta, perché passa tutto attraverso la cultura. Purtroppo noi tendiamo anche a parlarci addosso, scusami, tendiamo tanto a parlarci addosso, ma sono abbastanza convinta che se riuscissimo a smetterci di guardarci l'ombelico e uscire un po' nel mondo reale, ecco, proveremmo magari piano piano a cambiare le cose, con fatica, ma ci si potrebbe provare. Scusa, ti ho interrotto. No, per me tutto quello che hai detto condivido. E poi è anche un po' far parlare i silenzi, cioè quello che non si sente di solito, quello che non si vede, un po' questo. Cioè. Sì, penso che sia in dubbio il fatto che il teatro abbia un po' shiftato il suo ruolo, cioè invece di essere solo un intrattenimento, come poteva essere forse al principio, poi per carità c'è sempre stato fin da Shakespeare una sottile critica sociale di sottofondo, però mi sembra che per chi veramente è appassionato di teatro e lo fa, per quello che ho sperimentato, c'è molto questa esigenza di smettere di creare un teatro solo di intrattenimento, e che invece appunto diventi più una specie di visione, cioè una creare una coscienza, no? Una coscienza critica su quello che ci accade, quello che ci sta intorno, poi sia attraverso rivisitazione di classici, che insomma, il mio intervento all'inizio non voleva assolutamente sminuire nessuno. Sia attraverso ovviamente nuove scritture e che quindi questo si possa fare sia attraverso le parole che attraverso proprio delle forme teatrali diverse, no? Cioè quindi nella pratica. Guarda, niente, scusate, ho fatto questo inciso perché bene. Mi sembrava si legasse certo. comunque in qualche modo al tema di Simona di questa sera e quindi sì. un po' entrare più nel merito del sistema teatrale di oggi e, insomma, visto che facciamo guarda, teatro... quando posso lamentarmi del mio lavoro io mi metto qua comoda. No, però oggi ho letto una storia di un collega dove parlava del teatro che fa ridere e effettivamente Simona fa ridere, però cosa fa? Fa soltanto sganasciare, ti fa anche male. E infatti questo collega concludeva questa serie di storie dove parlava in realtà le giovani compagnie, no? Quella che si scontra con tutti questi casini, dei bandi, delle cose che ti dicono no, però forse non è il caso, oppure ti danno quella possibilità e poi te la tolgono da sotto il naso. Diceva, proprio concludeva dicendo sì, continuate a farci ridere, ma fateci anche male. E questo perché la risata non è soltanto le scoregge sotto le ascelle, anzi è mostrare il fianco, è un mostrarsi fragili in qualche modo, no? Sembrano delle banalità, ma in realtà se si guarda da vicino col microscopio è proprio umano, no? Un bisogno umano, quindi questo sì, affidiamoci alla nostra umanità in tutte le sfumature. Ecco, infatti un ultimo postilla di promozione, penso anche che non ho citato prima, anche la Scighera, che fa tantissimo teatro certo, sociale. Certo. Anche a proposito dell'immigrazione, abbiamo fatto uno spettacolo insomma, 2 settimane fa di Rossella Raimondi proprio sul tema della diciamo, integrazione sociale, sulla migrazione, molto cioè irriverente come Simona, però anche abbastanza tosto. Va bene, grazie. E quindi grazie. A proposito di risate, il 9 maggio giusto. Ci sarà qua ospite Eliana Rotella e Diego Piemontese con il testo Controtempo, che anche direi che anch'esso parla di tematiche abbastanza poco convenzionali e fa anche ridere. Sono amici e colleghi, quindi consiglio spassionatamente di venire. Esatto. Alla prossima, grazie mille di essere venute e venuti e buona continuazione della serata. Adesso potete applaudire. Se volete. Grazie Marte, grazie Giulia. Grazie a voi, grazie.